ad alta voce. Monica De Muro legge L'iguana di Anna Maria Ortese. Daddo al bivio. Anche il mare finisce. L'allegria di Salvato. Svegliandosi, dopo un minuto di niente, si ricordò questo e ciò che aveva visto durante la notte e che nel pomeriggio sarebbero partiti tutti. Il silenzio era così grande da far pensare che la notte non fosse passata. Ma poi, abituandosi all'oscurità, la creatura distinse su in alto dall'apertura che portava in cucina una grigia luce e capì che l'ultimo giorno era incominciato. Scoppiò in un grande pianto che subito si calmò. Le era venuta nella testina una immagine, non osiamo dire un'idea, in quanto ne aveva ben poche, il cui effetto era di spezzare quel pianto e ridare alla sua animuccia bestiale un filo di febbrile speranza. Alzatasi tutta indolenzita, essa andò nell'angolo dove erano i suoi pacchetti, raccolse questi e quelle monete che erano state rovesciate dal calcio di Felipe e il tutto cominciò a chiudere rapidamente in un largo fazzoletto rosso. Non dimenticò la sciarpa del conte e l'amaro specchietto, che sempre una donnina, anche la più brutta, ha caro un arnese del genere, facendo del tutto un grosso involto. Infine si dette una passatina col pettine, che ripose quindi nella tasca del grembiule. Si avvolse la testa in un altro fazzoletto e, trattenendo il fiato e tutti i battiti del suo verde cuore, che sembrava scoppiare, risalì, dopo aver alquanto orecchiato, in cucina. Stava di là per affacciarsi sul praticello tutto irrorato di un'argentea pioggerellina e da quello voleva raggiungere col suo fagotto una certa barchetta elegante che sappiamo per andare dove non possiamo dire, ma una brutta sorpresa l'aspettava. Si sentì agguantare per le spallucce da due mani fredde come la neve, mentre a lei davanti una enorme figura scura strillava: «Non accanitevi, per carità, Don Ilario! Non sarebbe da voi!» «Babbo! Babbo!» gridò la iguanuccia, riconoscendo in colui che la minacciava il suo idolo. Dopodiché una vera tempesta di colpi si accanì sul suo capo, davanti e di dietro, sulla nuca e sul muso, e il cielo stesso gridava: «Toglietemela davanti, se non volete che la uccida! La mia vita è finita e lo devo a questa idiota, a questa cretina! Ah, perché non è morta di scarlattina come tanti? Perché sua madre non la strozzò nelle fasce invece di avvolgerla? Perché ho dovuto raccoglierla proprio io, darle da mangiare, vestire come una nobile figlia? Prendi qua, ladra, donnaccia, scansafatiche!» Né si meravigli il lettore cortese, che era proprio questo. Quando si trovava nell'intimità della famiglia e nessuno lo guardava, il linguaggio del nostro letterato. E Don Fidenzio, che era lì e la cui apparizione egli aveva interpretato come un messaggio di malaugurio, foriero dell'annullato fidanzamento, era ormai come se più non esistesse in quell'ora di disperazione. In quanto alla creatura, aveva lasciato cadere il suo involto e un po' si difendeva con le manine sul muso, ma presto le si fece tutto buio e rotolò sull'erba con un brutto lamento. Non rattristarti, nobile lettore, per questi fatti, perché, come dice il poeta della nostra cara terra, tutto passa, anche il mare finisce. E anche col tempo passerà il dolore di una iguanuccia. né tantomeno devi indignarti con l'infelice marchese, che così agiva sopraffatto dal dolore che un uomo giovane e non di meno sfinito avverte allorché le sue ultime speranze di una soddisfacente collocazione nella società emigrano. Ma erano poi le speranze di Don Ilario definitivamente spezzate? E non si sarà invece Don Fidenzio imbarcato all'alba per l'isola solo per affrettarsi a comunicare al nobile isolano il perdono della suocera? E quella sua malinconia non sarà dovuta per caso al fallimento di una troppo spinta macchinazione di prelato? È quel che vedremo e in definitiva ci auguriamo. Ma non dimentichiamoci intanto del giovane architetto lombardo, il figlio non molto intelligente della contessa Leardi, venuto qui per acquisti di terra a scopo di speculazione e che tutto, si direbbe, ha dimenticato, o perlomeno è volto a tutt'altro ordine di pensieri. Curvo sui remi della Luisina, nella poca luce del nuovo giorno, egli voga verso l'aperto mare, incurante del freddo sottile e del cupo aspetto del mondo. Sceso nella Luisina e cominciando a remare in direzione della Luisa, il conte era in uno stato d'animo così strano che non si meravigliò di avvertire nell'aria bagnata quel caratteristico odore di pane caldo e caffè e perfino lo sferragliare dei tram che si sente a Milano alle 5 di mattina. Tutta l'anima sua era nella pianura lombarda, o piuttosto la buona pianura lo aveva raggiunto telepaticamente. Da una parte, egli continuava a sentire in sé, forte e quasi allegra, la voce del commendatore che gli indicava cieli mai visti in tutti i suoi viaggi di uomo altolocato. D'altra parte, l'amore della patria era di colpo così forte che voleva farlo piangere. «Tra qualche giorno sarò lì», si diceva come ebbro, nulla in realtà potendolo ostacolare in questo rientro del tutto previsto. E si vedeva mentre riapriva la porta dello studio e le due ragazze a lui care gli si muovevano con un sorriso incontro. Dall'altra si diceva «E con questo che farò lì? Invecchierò. Como, bell'agio». Ogni anno crociere, di autunno gli amici, ad Elchi. Passeggiate per via Manzoni pensando alle isole. E intanto nelle isole degli innocenti si deturpano, muoiono, mi chiamano. E io non sono con essi, io parlo di essi. E questo chiamo bene, questo per me è servire il fratello. Chiare come in un'antica stampa si stagliavano fra le nubi dell'alba via Bigli, l'amatissima San Fedele e tutte quelle braccia verdi della via Manzoni ed egli provava gioia da stare male. Ma contemporaneamente avvertiva un grido, una malinconia del proprio essere, come se tutto nella regione del sangue si dolesse di abbandonare quella miseria e quegli inganni così altamente supplichevoli. E più stravolta di ogni cosa si presentava a lui la iguana, dicendogli una parola che mai aveva ricevuto nella sua vita e che di tutte gli pareva più cara. Pappo, Pappo, che allo stesso modo di via Bigli e la piazzetta, ma forse anche di più, lo incantava. Né voleva rammentarsi di ciò che aveva udito poco prima dalle labbra di Felipe sulla doppia natura della bestiuccia. Proprio la sua condizione di morte lo obbligava. Ed ecco, uscendo da questo stordimento, forse proprio a causa del suo stato d'animo, gli pareva che durante la notte la Luisa si fosse allontanata, per non dire che l'isola di Ocagna si fosse allontanata dalla Luisa, cosa meno probabile. La distanza era almeno 10 volte più grande che la mattina avanti, e già il conte era inquieto con Salvato e pensava di muovergli qualche rimprovero, che del resto avrebbe giovato anche alla propria mente, aiutandolo a uscire dalla sua fosca tenerezza e da così magiche primaverili impressioni, quando gli parve che l'ombra che la Luisa proiettava sul mare, aiutata da un pallido cerchio d'argento che usciva per metà da dietro una colonna di fumo bigio rosato distesa sul fermo orizzonte, ed era il sole, quell'ombra fosse di parecchio più grande. Già si domandava con una stretta al cuore che accadesse quando la sua triste pace tornò, seppure con un'ombra di sorpresa, avendo egli riconosciuto dietro la Luisa l'alberatura di un'altra barca, il venezuelano palazzotto navale degli Hopkins, intravisto la notte nella rada. Stava quieta, immobile, e la deduzione più facile era che, abbreviata per qualche ragione la visita dei Hopkins ad Ocagna e rinunziato al segreto del viaggio, essi stessero per ripartire. Se col marchese o senza, questo era da stabilire. Come un auspicio che anche la propria partenza era prossima, questo fatto gli recò sollievo, sebbene durasse in lui quella nuova incertezza, opera della canzone del commendatore. Trovò Salvato nella cambusa che si preparava un forte caffè e aveva in viso qualcosa di insolitamente sveglio e gaio, come se durante la sua assenza non si fosse affatto annoiato, ma tutt'altro, e la notte, che al conte aveva portato smarrimento e dolore, fosse per lui trascorsa in piacevolissime distrazioni. Richiesto se vi fossero novità, rispose nessuna, salvo con l'occhio ammiccare alla nuova nave e con l'aria di aspettarsi solo una interrogazione per dare la stura a un nuvolo di confidenze. Ma il conte, senza badargli come voleva il suo chiuso cuore, si recò nella propria cabina, i cui legni e ottoni andavano illuminandosi pallidamente alla fumosa luce del sole che entrava dal finestrino aperto, e qui per prima cosa prese una pistola nel caso vi fossero difficoltà nell'espletamento della pratica. Raccolse poi tutto il denaro che aveva a disposizione, facendone, come aveva visto fare alla creatura, 3 pacchetti, 2 grandi e 1 piccolo. Erano in tutto 600.000 pesetas e 250.000 escudos. Meno di quanto supponesse, ma si riprometteva di riempire anche qualche assegno. Gli venne sotto mano, mentre frugava nervosamente in un cassetto per vedere se vi fosse qualche altra monetina, lo smeraldo della contessa madre, e subito lietamente lo prese, pensando a chi lo potesse dare. E l'immagine di colei che già il suo cuore aveva prescelta lo fece amaramente sorridere. Unì dunque lo smeraldo al maggiore dei pacchetti, e questo, se il lettore dovesse meravigliarsi, era il meno che il conte poteva fare per calmare la sua apprensione e non so che rimorso circa la creatura che temeva forte di dover abbandonare. Già immaginava lo stupore della menina vedendo vero denaro e un così fantastico gioiello che egli, prima di partire, le avrebbe consegnato, e un debole sorriso gli veniva alle labbra, ostacolato da una piega dura che saliva invece dal cuore ed era lì fissa dalla notte avanti. Tornò sul ponte in cerca di Salvato per dargli disposizioni sulla partenza, che doveva avvenire circa alle 14, e lo scorse che scambiava saluti con una voce bassa e appassionata con qualcuno che era a bordo della vicina nave, tutto spenzolato sulla murata, e si rivelò essere la camerierina negra dei Hopkins. I due ridevano così pazzamente che per un attimo il giovane si trovò a formulare un pensiero che lo ferì, e mai gli era venuto nella sua vita, e se gli era venuto lo aveva lasciato tranquillo, che quei due ridessero della sua semplicità. Era alle spalle di Salvato quando questi, vedendo negli occhi della sua dirimpettaia africana una repentina serietà, si volse e scorse a due passi e tutto rannuvolato il conte. Si affacciò in quel mentre accanto alla cameriera un soggetto lettore assai poco piacevole, un ometto sui 50 anni, dal viso giallo per quanto assolutamente sano, vestito di nero e il cranio del tutto pelato. Costui, vedendo il conte, si scappellò quasi per burla con una berretta che aveva nella destra mano. «Oh, signor Cole! Vengo subito, signor conte!» fece impacciato il Salvato, e con un saluto molto approssimativo a quelle due anime precedette il conte nella cambusa, dove frattanto si era belle rovesciato il caffè. Salvato sa dove il cielo si chiude. Lo sgombero. Non ti sei annoiato, vedo, ma non te ne faccio un rimprovero. Grazie, disse il conte mentre Salvato, sommamente confuso, si apprestava a porgergli quel che restava della bevanda. A questo punto, di nuovo il Salvato, che fino allora aveva esercitato un grande sforzo su sé medesimo per mostrare una faccia compunta e non offensiva per la penosa chiusura del padrone, scoppiò a ridere e nello stesso tempo non era indifferente al dolore che avrebbe provato una volta licenziato, cosa di cui era sicurissimo. Rideva dunque con un'apprensione e diremmo un'angoscia che fecero pensieroso, anziché sdegnato, il conte. Del resto a lui stesso, molte volte con Adelchi e per un non nulla, era capitato di abbandonarsi al ridere così, e anzi aveva l'impressione che l'animo suo fosse stato sempre infinitamente lieto prima dell'una del giorno avanti. E così non disse niente, ma si limitò a guardare i piedi del marinaio. Il signor conte mi licenzi pure, disse alla fine questi, asciugandosi le lacrime che gli scendevano copiose dagli occhi sul risvolto blu della manica. Non gli do torto, anzi l'approvo, però mi capisca, non c'è da sorridere per quel che le mie orecchie hanno sentito, ma solo da ridere e ridere fino a crepare. E senza attendere che il conte dicesse nulla, anzi, voltando un po' la faccia affinché le sue smorfie non lo ferissero oltre verso il finestrino, riferì completamente e ogni tanto fermandosi per il nuovo ridere, quanto Kitty, così si chiamava la domestica dei Hopkins, gli aveva confidato circa il progettato da Don Fidenzio matrimonio Segovia Hopkins, a causa, spiegò, del titolo di lui e di un'antica amicizia tra Don Fidenzio e la genitrice del letterato che aveva gli raccomandato il figlio prima di morire. Matrimonio contrastato, sebbene intensamente voluto, per una contraddizione tipica dei parvenu, proprio dalla stessa Hopkins madre, in quanto era risaputo che nell'isola il marchese aveva avuto, e pare avesse tuttora, una fiamma. Questa fiamma, purtroppo, il conte ascoltava con dolorosa attenzione, era una bestia, cara una volta alla famiglia del giovane, ma sempre una bestia. E stupida per di più, come il demonio. Poiché ogni volta che pronunciava la parola bestia, Salvato non poteva fare a meno, e il conte lo vedeva, di inghiottire qualcosa, quasi a frenare uno scoppio più irresistibile di ilarità, come se tale parola fosse solo un termine di comodo per rappresentare una più profonda e innominabile realtà. un aspro dolore, quasi una verità del mondo finora a lui nascosta, quella mattina si palesasse fra oscene rappresentazioni di Mimi, colse il conte che si passò una mano sulla fronte e poi, rialzando a un tratto il viso tirato, disse: «Una bestia? Che intendi dire?» «Il signor conte lo sa.» «No, che non lo so.» Il conte, provando una mortale debolezza, non aggiunse ciò che in altri momenti gli sarebbe stato facile. Non disse «parla». In lui era un vero terrore adesso di essere informato, parendogli confusamente che qui si stesse abusando di qualcuno. E lui si sentiva vagamente tra i principali sostenitori dell'abuso. Così, pur essendo una fresca, una morta mattina, sudava. «Non è che la creatura in questione non sia una bestia. È una bestia come tutti siamo, mi perdoni, signor conte.» Proseguì tra rispettoso e imbarazzato il sottoposto, che si era fatto un po' serio. «Ma è una bestia anche per un altro fatto, che questo è grave, e mi sa che il signor conte, così istruito, dovrebbe afferrare.» E improvvisamente, come rendendosi conto per la prima volta dei limiti mentali di quell'uomo così facoltoso e stimato, e quasi di una sua debolezza di fanciullo mai sospettata, tacque del tutto, questa volta rispettosamente. «Va bene così. Si riparte alle 2, Salvato», disse dopo un po' il conte. Si alzò, dette alcune disposizioni ed era ancora sul ponte quando si volse. Quel tipo, o signor Cole, era sulla nave? O quando è arrivato? Che fa qui?» «Mezz'ora fa arrivò, signor conte, con un mezzo proprio dalla costa. È un agente teatrale o qualcosa di simile, ma compra e vende di tutto.» «E perché non è sceso a terra?» «Doveva aspettare che il marchese si imbarcasse prima. Ma ora non si sa se il marchese si imbarcherà, per quanto... Tutto s'aggiusterà, dico io. Già Don Fidenzio è corso in Ocagna, che era l'alba. Sembra desolato.» «Perché?» chiese distrattamente il conte. «In confidenza le dirò quanto ho saputo. Don Fidenzio vorrebbe lui acquistare l'isola per farne un centro di meditazione e, diciamolo, di comodità. Ma a Mrs. Hopkins l'isola piace moltissimo e così l'unico mezzo era premere sulle superstizioni della suocera. Però il matrimonio, dopo l'incidente di stanotte, rischia di andare a mare e il prete sembra spaventato, vorrebbe salvare i capricavoli, ma non lo dice. Così ora confabula col signorino nell'isola e questo povero signor Cole non sa che fare.» «Non sa che fare», ripeté il conte, dopo aver ascoltato sordamente. Aveva già messo un piede sulla scaletta quando si volse e diede nuove istruzioni con fare disattento mentre osservava l'altra nave. Era uscita sull'alto ponte dorato la bella creatura che egli aveva visto la notte far visita allo scantinato e lo fissava con un sorriso intelligente e sicuro nel grazioso volto, come aspettandosi, essendo stata informata dalla cameriera, che egli si presentasse e chiedesse di parlarle. Ma al conte, improvvisamente, proprio quella deliziosa apparizione nella luce grigio oro del nuovo giorno rivelò come un colloquio, cui non sarebbe stato sfavorevole qualche minuto prima, era assolutamente inutile. Come in un lampo, egli vide che la giovane, a parte la sua potenza economica creata sulla rovina dei Guzman e che ai Guzman con le nozze tornava, era proprio ciò di cui l'avvizzita e sconvolta psicologia del marchese abbisognava per rifarsi. E che il Segovia, a parte il fatto che sposandosi rientrava in possesso dei beni materni e quindi non gli occorreva alcun aiuto, non di Milano, anche fosse stato povero, aveva bisogno quanto di quella forte ragazza, e che il suo destino non era stato e mai sarebbe la letteratura, ma una fattoria modernamente attrezzata e le gioie di marito e di possidente. Vide che il matrimonio si sarebbe fatto e Ocagna ceduta per non più turbare gli sposi al lungimirante arcivescovo. Solo della sua figlia malata, la nullatenente Iguanuccia, non riusciva a veder chiara se egli stesso non se ne occupava e al più presto la sorte. «Prevedo, scusa, leggero ritardo», disse in uno stento balbettio, lo stesso che gli conosciamo delle ore di pena, rivolto al salvato, il quale, e di poi si meravigliò molto di queste parole, gli rispose quasi dolorosamente, come se la nave fosse rientrata in porto da anni e il conte ne fosse tanto lontano. Dio la benedica, signor conte, per me fu un padre e grazie di tutto. Mio caro, di niente, rispose il conte con la solita cortesia, ma quasi priva di espressione, scendendo nella Luisina. E sul suo viso si era diffusa e ormai fermata una gravità malinconica. Anche il cielo e il mare, del resto, dopo un vano tentativo di sole, si erano come suggellati e fatti profondamente malinconici. La 13ª puntata dell'Iguana di Anna Maria Ortese, letta da Monica De Muru per Ad Alta Voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, per la regia di Riccardo Amorese. Ricordate che potete riascoltare tutte le puntate dell'Iguana da raiplayradio.it. Ricordate anche che oggi l'album musicale che ci ha accompagnato è stato Grey Oceans, album del 2010 delle Cocorosi, che si conclude con Fairy Paradise.